Il prossimo 2 e 3 di luglio, quindi questo weekend, alla Casona di Ponticelli, l'associazione Primo Moroni, tornerà la seconda edizione di Una pianura di libri. Noi siamo al telefono con Enrico per parlarne. Buongiorno. Ciao a te, ciao a chi ti ascolta. Buongiorno. Allora, innanzitutto ricordiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che cos'è Una pianura di libri. Beh, è un'iniziativa che è nata l'anno scorso per provare di coinvolgere il nostro territorio su argomenti che a noi cari come associazione culturale politica, quindi partendo banalmente dalla presentazione di libri, vedere di intavolare discussioni che possono servire a noi per crescere culturalmente, politicamente e per condividere le nostre idee con la gente che partecipa, insomma. Ecco, l'anno scorso nella prima edizione c'è stato un pienone con Zero Calcare e tanti altri appuntamenti interessanti. Cosa prevede il programma di quest'anno? Quest'anno tratteremo due temi, vabbè, cari alla sinistra, due temi interconnessi come è un po' tutto il mondo capitalista globalizzato, però sono il lavoro e l'ambiente, due temi che spesso vanno in contraddizione, anche perché la salute non viene tutelata nei posti di lavoro, ma il lavoro serve per campare e per portare a casa il salario. Quindi parleremo sabato 2 con la presentazione del libro Insorgiamo, che è il diario di una lotta collettiva al quale parteciperà il collettivo di fabbrica della GKN di Campi Bisenzio, che dal 2019 è sotto la minaccia di chiusura, e quindi parleremo con Dario Salvetti, che ci illustrerà appunto com'è la situazione attuale, il loro percorso, e proveremo di ragionare in termini anche un po' più generali rispetto al lavoro, alla qualità del lavoro, cercando di legare anche alla questione del polo logistico che sta per sorgere nelle nostre vicinanze, che propone un tipo di lavoro precario, ad alto sfruttamento, a basso salario, e quindi cercheremo di legare un po' i mondi del lavoro che ci circondano. E invece la domenica avremo due appuntamenti, perché ci sarà Wolf Bukowski, che presenterà un ultimo lavoro, un mini saggio che edito da Eris, che si chiama Perché non si vedono più le stelle, quindi farà un ragionamento sull'inquinamento luminoso e i danni che questo comporta e i motivi di questo fenomeno, insomma. E a concludere avremo Stefano Mancuso, un famoso neurobiologo vegetale che insomma, un po' tutti conoscono, col quale appunto proveremo di concludere cercando di tirare le fila rispetto ai discorsi che faremo sia sabato che domenica prima di lui. Quindi parleremo di ambiente, di possibili soluzioni, di contraddizioni, e proveremo di arricchirci, di arricchire chi vorrà partecipare. A condire tutto ciò comunque c'è la cucina di Ponticelli che non va dimenticata. Ti faccio una sì. Domanda appunto proprio su questi due temi che, come già dicevi tu, spesso vengono messi in contraddizione, invece visto anche, come dire, l'evolvere climatico, in realtà lavoro e ambiente possono andare di pari passo. Potrebbero, sì, dovrebbero, anche perché siamo assolutamente in ritardo per prendere delle soluzioni e per dare un'alternativa a questo modello di sviluppo. Tutti gli indicatori ci dicono che siamo tremendamente in ritardo, eppure i grandi interessi non permettono una transizione che in realtà sarebbe necessaria. Abbiamo esempi eclatanti, dall'Ilva di Taranto alle industrie chimiche, ma anche ai poli logistici, a tutto il trasporto su gomma che crea un inquinamento molto elevato e dannoso. È una contraddizione difficile da risolvere, non è che noi abbiamo la soluzione magica, però parlarne sicuramente. C'è chi ha già fatto proposte in questo senso, la società civile, le associazioni, per cui cercheremo di tirarle fuori e di ragionarci insieme per vedere di dare il nostro contributo. E nei cartelloni e nei manifesti che ha ricevuto il volantino esce la dicitura prenotare su cisarò.it. In realtà quello voleva essere una tutela nostra per vedere quanta gente poteva arrivare. L'appuntamento è assolutamente libero e gratuito, possono venire tutti senza necessità di prenotare, quindi sono tutti invitati, non fatevi trarre l'inganno dalla dicitura che abbiamo messo sul cartellone. E allora Allora io ricordo l'appuntamento sabato 2 e domenica 3 luglio a Ponticelli di Malalbergo per una pianura di libri. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao, buona giornata.